Questo programma vi è presentato da in collaborazione con e con e con e con Chiedo Asilo. Bentornati a Chiedo Asilo, un saluto da e un saluto da ecco, e un saluto anche da Wunderwaffer. Ah già, me ne stavo quasi dimenticando. Lo sponsor del nostro programma, che ha avuto un momento di appannamento dovuto allo scandalo in Vaticano. Ma adesso tutto sembra essere tornato alla normalità. Scusa, ma cosa c'entra Wunderwaffer con lo scandalo in Vaticano? Perché nella casa del maggiordomo, l'arcangelo Gabriele, sì, oltre a molte carte riservate, sì, e delle altre, hanno trovato 800 confezioni di Wunderwaffer sparite dai magazzini delle guardie svizzere e ricomparse lì. Quindi sai com'è il Vaticano, no? Appena si è saputo in giro alla Wunderwaffer, è arrivata una telefonata in cui li si invitava a non distribuire più il prodotto in Vaticano e anche in Italia. Quindi una storia di spionaggio. Sai com'è il Vaticano, no? Sai com'è. Più che altro è l'ennesima dimostrazione che davanti a Wunderwaffer è impossibile resistere. Il maggiordomo ha perso la testa davanti a tanta bontà e ha rischiato di essere beccato in flagranza di reato, perché anche la fragranza di reato, visto il Wunderwaffer, perché ci va del tempo a trasportare 800 confezioni di Wunderwaffer. Sì, però sui giornali, io non ho letto niente di questa vicenda del furto di Wunderwaffer. Ma sai com'è il Vaticano? Ma non lo so com'è. Non lo sa nessuno. Sai com'è il Vaticano, no? Wunderwaffer. Ein Stadtmensch. Sì, glauben wohl auch, dass wir hier oben etwas altmodisch sind. Wunderbar. Aber das stimmt nicht. Wir haben das frisch erfunden. Da ist Minze drin. In einer knackigen Füllung. Und zarter Schoki von Wunderwaffer, Wunderwaffer. Aber Vorsicht! Wunderwaffer. Ist cool, man. Aber Vorsicht! Ist cool, man. Wunderwaffer, Wunderwaffer, Wunderwaffer, Wunderwaffer, Wunderwaffer, Wunderwaffer, Wunderwaffer, Wunderwaffer, Wunderwaffer, Wunderwaffer. E ora vi reciterò la poesia di Mario Luzi, intitolata E il lupo, dedicata al lupo del martedì. E il lupo, quando scricchiola il ghiaccio ed animali in ansia là sulla banchisa guardano i mari disfatti, la deriva di icebergs. Ma come icebergs con la S? Sceluzzi, tra. Ma anche il secondo verso, ed animali, la D è eufonica, no? Shh, è Mario Luzi, drago, un po' di rispetto. Ho capito, ma icebergs non adesso devo ricominciare da capo. Quando scricchiola il ghiaccio ed animali in ansia là sulla banchisa guardano i mari disfatti, la deriva di icebergs, e sussulti di squali trafitti dalla fiocina s'agitano, si spengono, e il salmone, avido di procreazione e moribondo, nuota ritroso nei torrenti in piena, e il lupo con spasimo di tutta la sua vita, di quella dei suoi padri e dei suoi cuccioli, con questa ressa nel cuore, prende la via dei monti e si ritrova agile sulle vecchie zampe, pronto al richiamo dei venti originari che squillano l'amore, il viaggio e la rapina. E poi continua, però non parla più del lupo. Vabbè, allora possiamo dire che anche a Chiedo Asilo celebriamo la poesia. Sono contento. Poi, oltretutto, Luzi sono anni che aspetta il Nobel. No, drago, Mario Luzi no. Sì, dopo aver aspettato il Nobel tutta la vita, dopo aver festeggiato per finta la vittoria di Dario Fo, ha scritto migliaia e migliaia di versi, anche Mario Luzi è morto. Chiedo Asilo. Volevo solo segnalare che tra poco esce il regolamento per partecipare a J Factor e che le finali sono a dicembre. Cosa dici? Ma cos'è J Factor? J Factor è il fratellino cristiano del più famoso e secolare X Factor. Però tra i cristiani evangelici italiani sta spopolando questo J Infatti Factor. Sono tantissimi. Beh, 87 aspiranti solo l'anno scorso, quest'anno ne aspettano anche di più. Ma J sta per J Factor? J troppo facile, J sta per Jesus. Gesù, Gesù. E cosa dovrebbe fare il cantante italiano di oggi per dimostrare di avere il J Factor? Deve cantare bene. Bene, cantare canzoni pure, caste che celebrano l'amicizia, no? Cioè, tipo? Tipo questa. Però forse questa canzone non andrebbe tanto bene per J Factor. Anche secondo me. Perché è la storia dell'amicizia tra due bambini, però non è tanto innocente in fondo. Perché anche se lui dopo dice non sono gay, però secondo me questa cosa che, insomma, che sottolinea il fatto di non esserlo sotto sotto. Sì, poi alle manifestazioni cristiane, guarda, sempre meglio non parlare di bambini. Pop, pop, pop goes the weasel. Pop, pop, pop goes the weasel. Pop goes the weasel. Tu dici la canzone, ma poi la cosa del ricchione? E continui a dirla. Robin Gibb. Let's go outing.